Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo con quello che riguarda, con le notizie che riguardano la Grecia. Di nuovo forti tensioni sul paese, di nuovo ai massimi i rendimenti e il rischio paese monitorato proprio nel caso greco. Andremo avanti sul invece quel il vertice dei paesi che non hanno problemi, e mi riferisco a Brasile, Russia, o meglio Brasile, India, Cina, Sudafrica e anche Russia. La Russia qualche problema ce l'ha in più. Perché? Perché continua il vertice dei cosiddetti BRICS in Asia, per quello che riguarda nel sud della Cina, in un'isola del sud della Cina. Ancora sempre sul tema. Andremo a affrontare poi quello che è il nostro, ossia italiano, tentativo di dare un rilancio all'economia. Oggi su Sole 24 Ore ne scrive l'economista Roberto Perotti, il giudizio è già nel titolo, ed è una manovra senza coraggio, ossia, pur riconoscendo il ministro Tremonti, come abbiamo fatto molte volte anche noi, che è stata meritoria l'opera di contenimento del debito, del deficit, e che comunque, lo dice il Fondo Monetario in questi giorni, dovremmo arrivare a un avanzo primario e quindi a maggiori entrate rispetto alle uscite al netto degli interessi sul debito. Questa è la parte che riguarda i conti pubblici. Il Ministero dell'Economia si divide, in sostanza, perché li raggruppa, tra Ministero delle Finanze, come si chiamava una volta, e poi il Ministero dell'Economia vera e propria, Ministero delle Finanze e Bilancio, dove per economia si intende però anche le misure di politica economica per dare una mano alle imprese. Già ieri ricordavamo che obiettivamente i 16 milioni di euro messi a disposizione all'anno, che poi diventeranno 14 e 12 nei prossimi anni, per agevolare fiscalmente le reti di impresa, sono poca roba. Come battuta dicevamo, costano quanto due giocatori di calcio, o anche un giocatore di calcio, dipende dai casi. Per quello che riguarda, e quindi si cerca di capire cosa fare, visto che altri paesi hanno fatto, non c'è solo il caso della Germania. La Germania ha aumentato l'IVA in alcuni casi, e poi però ha destinato queste risorse, buona parte di queste risorse, al mondo dell'impresa. I mercati come vanno? Erano partiti deboli e debolmente negativi, poi si sono ripresi, soprattutto Francoforte si è ripresa ed è andata in positivo a metà giornata. Anche Milano ha ridotto notevolmente le perdite, e l'indice FTSE MIB, così come Parigi, in un giorno in cui segnaliamo soprattutto il nuovo record anche dell'oro e di altre materie prime. Nel caso specifico Milano, in questo momento Piazza Affari perde lo 0,11%, Parigi è tornata in pareggio, Francoforte più 0,40%, Londra mezzo punto percentuale di rialzo, l'America più 0,21%, segnaliamo il buon andamento di Prismian più 3,1%, Fiat più 3%, Exor più 1,23%. Ancora il fronte opposto invece vede calare oggi tutte le banche di nuovo: Popolare di Milano meno 2,5%, Intesa meno 1,6% come il Monte dei Paschi, il Banco Popolare perde lo 0,90% come UbiBanca, e infine Unicredito perde lo 0,60%, il peggior titolo tra quelli più grossi è Fondiaria Assai meno 3,21%. 349-238-6666 per i vostri sms. Ci occuperemo anche di benzina, perché ci ha lasciato così perplesso la dichiarazione oggi del direttore generale della Conad. Della Conad è uno dei pochi centri della grande distribuzione che permette di fare il pieno se si va a fare la spesa. Ebbene, sapete cosa ha detto Francesco Pugliese? Ha detto: al di là delle chiacchiere, le grandi compagnie petrolifere stanno facendo un sacco di utili, visto che io, come Conad, pur comprando carburante da terzi, riesco a coprire le spese e ci guadagno pure. Allora, se ci guadagna chi lo compra da terzi, figuriamoci le compagnie petrolifere. No, questo lo dico perché è ancora in corso la polemica sulle compagnie petrolifere che dovrebbero abbassare i prezzi quando cala il prezzo del petrolio. Allora andiamo a sentire, invece che parlare sempre con, pur con il massimo rispetto, con il presidente De Vita, quindi che rappresenta le compagnie petrolifere, andiamo a sentire chi vende la benzina, comprandola dalle compagnie petrolifere, quindi facendo intermediazione. Lo faremo nella seconda ora del programma e prevedo anche un po' di sms sul tema. 349-238-6666 per i vostri appunto messaggi. Rapidamente le altre notizie in breve. Dicevamo del nuovo record dell'oro a $1,481,90, leggermente in calo il petrolio a $107 e anche della benzina abbiamo appena detto, mentre Bank of America, quindi andiamo sulle banche d'affari americane, ha visto l'utile calare a 2 miliardi e c'è una notizia sui bonus dei manager che questa volta non riguarda le banche d'affari americane, non riguarda le banche d'affari, riguarda, pensate un po', un gruppo spagnolo che è il principale gruppo di telefonia in Spagna, si chiama Telefonica. No, come dire che un po' tutto è paese, almeno in questi casi, la Spagna che sta vivendo una crisi pesantissima sul fronte occupazionale. Nel caso specifico Telefonica ha licenziato, l'altro ieri ha fatto l'annuncio, il 20% dei suoi dipendenti, circa 5.600 persone. E fin qui uno può dire, beh, dolorosa come notizia, ma evidentemente il gruppo ne ha bisogno, ne avrà pure bisogno di questi 5.600 licenziamenti, però non ha esitato a proporre alla Consob di Madrid, per la prossima assemblea degli azionisti, incentivi ai dirigenti per 450 milioni di euro, pagando poi un dividendo di 75 centesimi di euro per azione e di 77 centesimi di euro nel secondo semestre, per un valore complessivo degli utili distribuiti pari a 7 miliardi di euro. Ora, io capisco tutto, per carità, l'obiettivo di un gruppo privato è aumentare i profitti, aumentare anche i rendimenti per i suoi e quindi per i suoi azionisti, distribuire dividendi, ma insomma, se riesce a distribuire 7 miliardi di dividendi e chiedi di dare 450 milioni di euro ai dirigenti, obiettivamente diventa più difficile, a mio avviso, senza nessuna retorica o populismo, giustificare 5.600 licenziamenti in un paese che viaggia già con una disoccupazione record in Europa. La crescita dell'economia cinese, visto che poi ne parleremo, confermata al 9,7% nei primi tre mesi, confermata però anche un'inflazione preoccupante in Cina, al 5,5%, è il livello più alto da quasi tre anni a questa parte. Anche in India, altro paese che sta crescendo a tassi del 7%, l'inflazione non si ferma e sta toccando una cifra obiettivamente preoccupante, da noi sarebbe impensabile, all'8,9% l'inflazione in India. Si surriscalda quindi la crescita economica dei BRIC o BRICS, visto che c'è anche il Sudafrica dentro, e si surriscalda per via soprattutto dell'aumento dei prezzi delle materie prime, petrolio, oro, argento, platino, rame, ne stiamo parlando da mesi. E anche in Europa i prezzi corrono, l'inflazione nell'area euro sale al 2,7%, in Italia confermata al 2,5%, che però è il livello più alto quanto a crescita dei prezzi al consumo ma dal 2008. E poi l'economista Nouriel Roubini, quello che anticipò per primo la crisi, considerato da alcuni un guru, da altri un gufo, oggi dice che dopo l'inevitabile ristrutturazione del debito greco, vuol dire che la Grecia dovrà dichiarare default, fallimento, e il suo debito verrà ristrutturato, che vuol dire che chi aveva dei crediti nei confronti della Grecia si rivedrà ridurre parecchio, e mi riferisco a tutti i paesi europei a partire dalla Germania, che è il paese più esposto verso la Grecia. Roubini ritiene, dicevo, inevitabile il fallimento della Grecia e la ristrutturazione del suo debito, e ha detto a questo punto la Banca Centrale Europea potrebbe alzare i tassi di interesse fino al 3%. E su questo iniziano anche a esserci le prime prese di posizione. Werner Hoyer, vice ministro degli esteri tedesco, ha detto Se venisse chiesto alla Germania di partecipare a una ristrutturazione del debito greco, l'ipotesi non sarebbe un disastro, saremmo disponibili. Praticamente su questo si allinea anche il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che dice: sono stato male interpretato. Aveva detto infatti al quotidiano tedesco Die Welt che se la Grecia non fosse stata in grado di mostrare la sostenibilità del suo debito a giugno, sarebbero state necessarie nuove misure. Comunque, la cosa importante in questo momento è vedere che cosa ne pensa il mercato, e il mercato va, devo dire, in maniera abbastanza netta verso l'ipotesi di fallimento. Di fatto la Grecia è tecnicamente già fallita, fallimento del debito greco. Perché? Perché lo spread, ossia tra quanto rende il bot tedesco e quanto rende l'equivalente bot greco, è arrivato a 1000 punti, cioè al 10%, e anche il rischio misurato dai premi che si pagano per assicurarsi contro il fallimento della Grecia nel caso uno avesse obbligazioni greche, i credit default swaps, ebbene anche questo premio è arrivato a un livello record, 1147 punti. Vuol dire che il mercato ritiene che le possibilità che la Grecia fallisca sono ormai al 63% nei prossimi 5 anni. Nel frattempo la Grecia ha avviato un piano di privatizzazione, di austerity, come si dice in gergo, 50 miliardi di cessioni entro il 2015 per tagliare il 20% del suo debito. Anche l'Irlanda, che oggi si è vista abbassare il voto da Moody's, dall'agenzia di rating Moody's, da AA1 a AA3, ha detto: dovremmo fare altre manovre correttive, altre correzioni significative per portare a un livello sostenibile il nostro debito. L'Italia con due notizie buone e poi arriviamo al primo tema. Corre il getto dell'IVA, nei primi due mesi è salito di quasi il 7% a 13 miliardi, crolla invece il canone RAI, questo lo sostiene il Ministero dell'Economia, poi ha risposto Masi, il direttore generale della RAI, non è vero, ma insomma sono polemiche in questo caso più politiche, e noi ci fidiamo del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, che ha notato come il gettito da canone sia crollato del 37,5%. La RAI dice che sono errati i dati del tesoro, le entrate del canone sono cresciute, questa è una cosa bellissima, in questo paese ognuno può sostenere quello che vuole anche sul canone. La RAI dice che è cresciuto di 15 milioni di euro. L'ultima notizia non è invece così positiva, anche se non va drammatizzata. A febbraio il nostro export è calato dell'1,4% su base mensile, e anche su base annuale meno 0,4%, l'export ha fatto più 18, scusatemi, su base mensile è calato sia l'export che le importazioni, su base annuale ovviamente sono aumentate sia le esportazioni che le importazioni, più 18,5% l'export, più 19,5% le importazioni. 349-238-6666 per i vostri sms. Mi chiedete perché, se la Grecia è in queste condizioni, l'Irlanda pure, il Portogallo ha appena chiesto l'aiuto, l'euro è così forte? Beh, perché evidentemente i mercati si attendono a altri aumenti dei tassi di interesse, altre spiegazioni non ce ne sono, e comunque l'America continua ad avere una politica di dollaro debole, l'euro obiettivamente è forte, è 1,4440 in questo momento. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. Le politiche per la crescita e la manovra senza coraggio, come commenta oggi Roberto Perotti sul Sole 24 Ore. Mercoledì il Consiglio dei Ministri ha varato il documento di finanza pubblica, il piano nazionale di riforme, che deve essere presentato a Bruxelles entro fine aprile. Le stime di crescita prendono atto di una crescita bassa, modesta, sono riviste a ribasso, l'1,1% la crescita italiana quest'anno, mentre prima si sperava in un 1,3%, 2012 1,3% contro un 2% precedentemente ipotizzato. La pressione fiscale è al 42,5% quest'anno, salirà al 42,7% nel 2012 e poi dovrebbe scendere al 42,6%. Comunque, le tasse non calano, la pressione fiscale non cala, aumenta anche leggermente. Buoni dati invece sul deficit, calato, indicato quest'anno al 3,9% e al 2,7% nel 2012. I conti pubblici, mi sembra che ci sia consenso unanime su questo, sono l'aspetto migliore in questo momento dei dati economici italiani. Roberto Perotti, economista, è stato nostro ospite altre volte, insegna all'Università Bocconi di Milano ed è appunto editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore. Buonasera. Le chiedo leggermente di alzare la voce che la sentiamo un po' basso. Allora, lei titola, insomma, la manovra del governo è senza coraggio e già qui capiamo il taglio. Riconosce all'inizio del fondo di oggi su Sole 24 Ore che il ministro Tremonti ha messo in sicurezza i conti pubblici e ha fatto anche manovre sul deficit che stanno portando l'Italia in un percorso virtuoso, lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale. Dov'è che mancò il coraggio? Beh, intanto mancò il coraggio al governo più che a Tremonti, perché non avremo mai la controprova, ma sospetto che Tremonti avrebbe fatto di più se non fosse stato sottoposto a pressioni da tutte le parti. E mancò il coraggio nel non cercare di affrontare il problema della spesa pubblica. L'Italia è un paese in cui la spesa pubblica si mangia più del 50% del PIL. E ci sono paesi che vivono così e bene da decenni, come i paesi scandinavi. Non è ovvio che questo sia il caso dell'Italia, non è ovvio che si debba o si voglia continuare a farlo. Se non vogliamo continuare a farlo, prima o poi qualcuno deve farsi carico di ridurre la spesa pubblica, che non è facile, politicamente è difficilissimo. Quindi questo non era certo il momento per farlo politicamente, me ne rendo benissimo conto, non lo sarà neanche nei prossimi 2 anni, però questo è un fatto. Sì, c'è chi ha fatto notare che in realtà nel documento presentato mercoledì nel Consiglio dei Ministri, quindi documento di finanza pubblica e piano nazionale di riforme, di interventi mirati e di riforme a costo zero c'è veramente poco. Ci sono degli incentivi fiscali per le reti di impresa, cioè quelle imprese che si mettono a rete nei distretti industriali, che sono, lasciatemi passare il termine, quasi offensivi, cioè 15 milioni per quest'anno, 13 milioni nel 2000 e 12 sono veramente briciole. È sul fronte delle riforme a costo zero anche che è mancato il coraggio, e se sì, perché secondo lei non si fanno le riforme che avrebbero un impatto basso in realtà sui conti pubblici? Ma le riforme a costo zero, non so bene, l'esempio che ha fatto lei secondo me non è dei più felici, perché anche quei 15 milioni secondo me sono buttati via, i sussidi alle imprese sono quasi sempre soldi buttati via. Quindi non è ovvio che si possa risanare le finanze pubbliche di un paese con le riforme a costo zero. Purtroppo per ridurre la spesa viaggia sul 52% del PIL, di un po' di punti percentuali bisogna fare interventi drastici e questo nessun governo ha mai avuto il coraggio di farlo, non è solo questo che non ha avuto, ma neanche gli altri governi in passato hanno avuto il coraggio di farlo. Però secondo me bisogna togliersi l'illusione che le si possa fare con i piccoli passi. Per risanare un bilancio di questo tipo bisogna fare interventi drastici e ripeto, so benissimo che è politicamente difficile, non voglio dire che... Ecco, però mi faccio fare una domanda all'economista, intanto vi do un aggiornamento: l'oro ha toccato quota $1,484 l'oncia, un nuovo record, e andiamo avanti così. L'obiezione che posso muovere è questa: in un momento in cui abbiamo perso 5 punti percentuali di PIL l'anno scorso, quest'anno ne recuperiamo uno, cioè nel 2010 ne abbiamo recuperato uno, quest'anno ne recuperiamo un altro, se va avanti così arriviamo tranquillamente al 2013 prima di tornare ai livelli del 2007, del 2008. C'è stato il blocco del turnover nella pubblica amministrazione. I salari non crescono, o perlomeno crescono molto poco. Andare a toccare la spesa per la pubblica amministrazione non significa deprimere ancora di più la domanda interna? Non sarebbe meglio trovare delle formule anche che liberassero risorse? Le liberalizzazioni magari questo fanno, alcune misure fiscali mirate, non a pioggia, potrebbero avere questo effetto, no? Cioè, perché andare a tagliare la spesa pubblica in questo momento significa andare a ridurre il potere d'acquisto, la spesa pubblica dei dipendenti, i salari, non le consulenze, le mazzette e i costi della politica, ci mancherebbe. Prego. Beh, Intanto la spesa pubblica per dipendenti è circa il 12%, 11-12% del PIL, quindi circa un quinto della spesa totale. Però bisogna, secondo me, stare attenti, perché non è mai il momento buono di fare queste cose. Non è il momento buono ovviamente quando c'è una recessione 2009-2010, non è il momento buono adesso che stiamo uscendo dalla recessione. Quando poi, se verrà il boom economico, non sarà il momento buono, perché allora nessuno avrà, non ci saranno problemi di finanza pubblica, che non ci sarà disavanzo, quindi non ci sarà un senso di emergenza. Quindi il momento buono per fare queste cose non c'è mai. Che va bene, cioè, se noi siamo convinti di voler vivere con livelli di spesa pubblica da regime socialista pre-caduta del muro di Berlino, va bene, però dobbiamo renderci conto che questa è la situazione. Ripeto, se vogliamo risanare le finanze pubbliche, secondo me dobbiamo togliersi l'illusione che si possa fare con i piccoli passi, con manovre indolori, però non è neanche detto che nel lungo periodo, o anche nel medio periodo, queste cose debbano per forza creare sfracelli. Ci sono esempi di paesi che hanno fatto risanamenti fiscali, il Canada negli anni 90, senza andare all'Irlanda, che è l'esempio che citano tutti, ma anche il Canada negli anni 90, che l'hanno fatto in un momento non di crescita altissima, di buona crescita, senza ripercussioni terrificanti sull'economia. L'Inghilterra lo sta facendo adesso, ha avuto una recessione peggiore della nostra, non sappiamo quali saranno gli effetti, magari c'è una recessione ancora peggiore, però per il momento non sembra aver creato sfracelli. Professore, adesso poi vorrei fare anche una domanda sul caso greco, però per concludere questo approfondimento, d'accordissimo che se non hai la forza politica e il coraggio, come diceva Manzoni, se uno non ce l'ha non se lo può dare, devi fare riforme anche impopolari, ma questo lo diciamo non solo nel caso della spesa pubblica, in altri casi, cioè, voglio dire, se tu stai a guardare il consenso con i sondaggi giorno per giorno, non farai mai una misura economica duratura per il paese, attenzione, perché detto questo, però, se posso muovere una mia obiezione al suo articolo, modestamente, manca la parte, diciamo, lei dice coraggio di tagliare e va bene, però io vorrei anche la parte construence, cioè la parte costruttiva su questo, cioè che politiche fa. Noi abbiamo fatto con su 24 ore, sono uscite tutte le promesse di riforme ancora non attuate, l'abbiamo fatto l'elenco completo, e poi forse anche un accenno al recupero dell'evasione, no? Sì, sono d'accordo con lei che manca la parte costruente, infatti nella fine dell'articolo lo scrivo, che insomma io ho un vantaggio in quanto accademico, che mi posso permettere di pontificare mentre Tremonti ha a che fare con tutti i vincoli politici di tutti i giorni, quindi su quello sono d'accordo. Io non nego il fatto che politicamente sia molto difficile in questo momento, per lo più con un governo che ha ben altri problemi di sopravvivenza. Quindi per questo scrivo molto chiaramente che di non farci illusioni che per i prossimi 2 o 3 anni non succederà niente. Quindi i vincoli politici sono innegabili, però appunto ripeto, dato questo non facciamoci illusioni che si possa cambiare le cose con i piccoli passi. Ultima domanda, lei ha scritto anche recentemente del caso greco, oggi la Grecia precipita, se così possiamo dire, secondo me era già al fondo, ma insomma non solo Rubini si aspetta, anzi definisce inevitabile il fallimento della Grecia, quindi la ristrutturazione del debito, la Germania apre con il ministro degli esteri dicendo beh insomma se dovessimo ristrutturare il debito greco non sarebbe un dramma, gli spread con le obbligazioni tedesche volano a 1000 punti e il CDS a 1147 punti. Secondo lei si può ancora ipotizzare che il probabile fallimento della Grecia, il default greco, abbia conseguenze limitate in Europa? Se solo la Grecia, sì, teniamo presente che quando si parla di default e fallimento non si parla di un fallimento e default totale, si parla di ristrutturazione del debito, certo. Quindi se è limitata la Grecia, credo di sì, se è limitata anche al Portogallo, credo di sì, non so bene, non sono sicuro. Ovviamente la grande spartiacque è la Spagna, ma secondo me il fiero spartiacque dopo la Spagna purtroppo è l'Italia. Questo lo sappiamo. Grazie a Roberto Perotti, editorialista del Sole 24 Ore e docente appunto di economia alla Bocconi di Milano. Grazie a lei. Sì, noi continueremo a battere, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, sul tema delle riforme possibili, quelle a costo basso, a costo zero, le liberalizzazioni. È una nostra ossessione? Sì, lo è, perché liberalizzare un'economia significa creare maggiore ricchezza, levare le rendite di posizione, levare le caste o ridurre il potere delle caste, dei cartelli, delle lobby, di tutti quelli che guadagnano, passatemi il termine, per rendita e non per merito. E di liberalizzazione non se ne vedono, la penso esattamente come Oscar Giannino, non se ne vedono. Un governo di centrodestra dovrebbe fare, se ancora ha un senso centrodestra con centrosinistra, le liberalizzazioni. E invece qui di liberalizzazioni sul mercato, anzi sulle farmacie, non mi fate riparare delle farmacie, degli ordini professionali, avvocati in primis, che stiamo tornando al pre-decreto Bersani. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso facciamo la borsa, poi Parmalat, poi il prezzo della benzina e poi il caso del Brasile, da leggere con attenzione, perché un paese che è riuscito a diminuire la povertà, dimezzarla, aumentando la ricchezza per tutti, sembra quasi uno slogan, ma è così, ed è l'economia che dopo Cina e India cresce di più al mondo. Alcuni scrivono: in questo paese la politica del centrodestra è quella in economia, è quella della sinistra, e la sinistra fa la politica di destra quando è al governo. Non lo so, a me basterebbe che si facessero le riforme, qualunque sia il governo, soprattutto se vengono promesse, annunciate e poi invece restano ferme in Parlamento. Evidentemente, quando c'è voglia, le Camere sanno lavorare velocemente, allora lo facessero anche sulle riforme. Sono d'accordo che è difficile toccare le caste, le rendite di posizione se sono molto presenti in Parlamento, ma non ci si può arrendere, se no espatriamo, che dobbiamo fare? Il problema è continuare in questa direzione e liberare risorse, ci sono riforme possibili, abbiamo fatto l'elenco, se volete ogni inizio settimana vi rifaccio l'elenco del Sole 24 Ore, delle manovre annunciate, delle riforme annunciate e invece ancora ferme in Parlamento, evidentemente non prioritarie. Adesso però la borsa. Invariata nel finale Milano, più 0,1 Parigi, più 0,44% Francoforte, più 0,50 Londra, più 0,33% nell'America in questo momento. Nasdaq invariato, euro a quota 1,44,42. C'è chi chiede ancora delle riforme. Le riforme, oltre a quelle classiche, vogliono dire anche, per esempio, si può pensare a riformare gli incentivi statali verso le imprese, riformare i fondi europei per il Sud, trovare un modo per cui si premiano fiscalmente le aziende che si mettono assieme, così usciamo anche dal nanismo che frena le imprese italiane, premiare veramente i distretti industriali che tramite la Confindustria locale creano le reti di impresa e non dargli le briciole di 14 milioni annunciate da Tremonti l'altro ieri. Secondo me, ripeto, 14 milioni sono offensivi in questo caso, poi però ti ritiene che siano sbagliati anche 14. Ognuno la pensi come vuole, mi sembra che soldi non ce ne siano e non se ne vogliono trovare. Comunque, borsa, dai. Prismian, dopo le previsioni sul 2011 migliori del 2010, guadagna tanto, il 2,80%, ma nel finale viene superata da Fiat Industrial, quindi camion e trattori, più 3,20%, che trascina anche la controllante Exor, più 1,90%. Paolo Paronetto, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Fiat Industrial e Prismian. Sì, per quanto riguarda Fiat Industrial, come del resto anche per Fiat S.p.A., è iniziata l'attesa per la pubblicazione dei conti del primo trimestre, che saranno resi noti la prossima settimana, e proprio in vista, in questo caso, della pubblicazione dei conti di Industrial, molte banche d'affari hanno premiato oggi il titolo di Fiat Industrial. In particolare Citigroup ha inserito le azioni nell'elenco di quelle preferite in acquisto, e anche in Italia Intermonte ha alzato la raccomandazione sulle azioni, trainando ovviamente, ovviamente si tratta di giudizi che vengono probabilmente da incontri con il management in vista della pubblicazione dei conti. E per quanto riguarda Prismian, come dicevi tu, ieri c'è stata l'assemblea che ha approvato il bilancio 2010, e nel corso dell'assemblea l'amministratore delegato Valerio Battista ha detto che il 2011 sarà migliore del 2010, quindi anche in questo caso le azioni beneficiano di una prospettiva positiva per l'andamento del business nei prossimi mesi. Ancora, Banca Popolare di Milano, oggi negative, non malissimo, tutte le banche, però la Popolare di Milano perde il 2,36%, un punto in più rispetto alla media. Mi sembra che il mercato stia dando per scontato l'aumento di capitale dopo che gli ispettori della Banca d'Italia hanno detto all'istituto presieduto da Ponzellini devi aumentare le riserve, il patrimonio, anche in vista di Basilea, ma non solo. Sì, esattamente. Le banche oggi sono andate tutte in lieve calo anche in seguito ai conti di Bank of America negli Stati Uniti, che sono stati peggiori delle attese. Infatti a livello europeo il sottoindice ha perso lo 0,7%, la peggiore però appunto è BPM che ha perso il 2,36%, e ormai martedì si riunirà il CDA che esaminerà la relazione degli ispettori di Banca Italia dopo l'ispezione. Proprio il punto principale è proprio l'invito formulato dal governatore Mario Draghi ad aumentare il capitale. Ricordiamo che soltanto poco più di 2 settimane fa il CDA della BPM si era spaccato bocciando a maggioranza una proposta di aumento di capitale presentata dal presidente Massimo Ponzellini. Certo, adesso che c'è anche la esplicita nuova espressione di Banca d'Italia, ascolteranno Ponzellini. Certo. Hai ragione a sottolineare che l'utile in calo della Bank of America penalizza tutto il settore bancario in Europa, e noi ricordavamo appunto anche Intesa San Paolo -1,70%, Monte dei Paschi -1,20%, UbiBank -1,1%, Banco Popolare -1%, Mediobanca -1%, ancora Fondiaria Assai -3%. Fondiaria Assai è stata appunto la peggiore tra le blue chip, non c'è alcuna notizia particolare esplicita sul titolo. Certo, il titolo come sempre nelle ultime settimane, anche negli ultimi mesi, è tra quelli che risentono maggiormente di una debolezza del comparto finanziario. Oggi in tutta Europa i titoli finanziari sono tornati a risentire dei timori legati alla tenuta del debito pubblico e di alcuni paesi dell'Eurozona. C'è stato un taglio di rating dell'Irlanda oggi in mattinata. Inoltre Fondiaria Assai comunque veniva da un periodo positivo, ha guadagnato l'11,7% dalla fine di marzo, e quindi in questo quadro oggi di preoccupazioni sono anche scattate le prese di beneficio. Migliori e peggiori in assoluto, Mondo Home Entertainment +15,45%, di nuovo interesse? Sì, di nuovo Mediaset ha beneficiato in teoria. La notizia di oggi è la cessione temporanea in licenza di una serie di film a Sky Tele e Telecom Italia. Okay. Il titolo comunque, come ricordavi tu, è da tempo sotto i riflettori con varie voci e varie ipotesi di scenari futuri. Bene, anche Poltrona Frau +6,85%, Archimedia +4,60%, Eurotech +4% e Saipem sulle risparmio, però è +4% negativa. Seat Pagine Gialle -12%, ma molto aveva guadagnato ieri. Richard Ginori -6,6%, Tiscali -6,20%, Montefibre -5%, Saras -3%. Buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. A tutti voi anche. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo che il tema delle riforme possibili, quelle che costerebbero poco, è un tema che piace. Le ricorderemo per correttezza anche tutte le riforme annunciate ancora ferme, lo facciamo se vogliamo ogni settimana. Poi magari lanciamo anche un concorso di proposte serie di riforme a costo zero. Vedo che alcuni scrivono per le imprese anche la defiscalizzazione degli utili reinvestiti. Sì, certo, esisteva già. Devo dire che poi bisogna capire l'importo, ma stimolare le imprese a reinvestire gli utili, stimolarle anche fiscalmente, sicuramente risolverebbe alcuni problemi sulla capitalizzazione. Insomma, si possono dare dei segnali da defiscalizzazione per chi crea imprese per i primi 2 anni, come hanno fatto. Insomma, negli altri paesi si sono mossi su questo, è inutile nascondersi. Noi parliamo invece di Parmalat, c'è un decreto, lo ricorderete, chiamato subito Salva Parmalat, che poi diventerà una legge. Tremonti dice che la copierà da quella francese, cioè i settori strategici in cui il governo può bloccare eventuali scalate straniere. Per ora questo decreto ha fatto slittare di 60 giorni l'assemblea degli azionisti, infatti si terrà a giugno, e nel frattempo, come in prima pagina oggi su Sole 24 Ore, si cerca di trovare questa famosa cordata alternativa italiana per fare in modo che la Parmalat resti in Italia. C'è chi chi scrive, ma liberalizzate le frequenze. Guardate che le frequenze sono già liberalizzate, è un mercato, si comprano anche care, quindi invece che insultare la radio, informatevi. E comunque potete anche cambiare radio, eh. Allora, Simone Filippetti, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Oggi un tuo articolo apre la prima pagina del Sole 24 Ore, una super holding per la nuova Parmalat. Le ipotesi allo studio. Sappiamo che il gruppo Intesa San Paolo, ma adesso c'è anche Unicredito dentro, stanno cercando un po' con fatica di trovare delle cordate. Ferrero ha nicchiato, per non dire che ha detto no. Granarolo sembrava molto dubbiosa. Quali sono gli sviluppi e di che cifre stiamo parlando? Perché Lactalis praticamente è arrivata a un livello che è esattamente sotto il livello dell'OPA, il 29%, per cui una bella fetta di Parmalat. Sì, 29,9, quindi siamo a un soffio dall'obbligo di lanciare un'OPA. Le ultime novità sono proprio fresche delle ultime ore, sono che Granarolo è ufficialmente in qualche modo sceso in campo, perché il CDA della cooperativa di Bologna, che è di fatto il secondo produttore di latte oggi in Italia, proprio dietro la Parmalat, ha dato un mandato ufficiale al proprio presidente Giampiero Calzolari di sostanzialmente andare avanti e preparare, quindi fare parte di questa cordata e preparare, adeguarsi per questa battaglia, chiamiamola così. Il problema però, come dicevi giustamente tu, più ancora che imprenditoriale è finanziario, perché ci vogliono un sacco di soldi per lanciare questa controffensiva ai francesi che sono venuti in qualche modo a invadere casa nostra, a prendersi la maggioranza della Parmalat. I francesi hanno speso 1,5 miliardi di euro circa per rastrellare quel 29,9% che oggi possiedono, e l'alternativa della cordata è o cercare di farsi rivendere quelle quote dei francesi, ma dovrebbero comunque offrire un prezzo più alto, e bisogna poi vedere se i francesi sono d'accordo a rivendere azioni che hanno di recente comprato, b, e lanciare un'offerta sul mercato, che sarebbe in qualche modo la soluzione più così, più logica, anche più di mercato, che tutelerebbe anche le minoranze. Però un'OPA sulla Parmalat, un'OPA totale siamo intorno ai 5 miliardi di euro, un'OPA parziale, come si è in qualche modo ventilato nei giorni scorsi, comunque costerebbe 3 miliardi e mezzo. In ogni caso si tratta di cifre enormi che non è facile chiaramente mettere in campo. Sì, questa è la vera sfida, perché insomma tra i 3 miliardi e 3 miliardi e 500 milioni, perché insomma è ovvio che tutta l'operazione, come tu ricordavi, avrebbe un senso se poi si arrivasse a un'OPA, no? Nel senso, un'offerta pubblica di acquisto, perché il 60% di Parmalat vale 3 miliardi e mezzo. Della cordata, i ruoli di Banca Intesa, secondo quanto risulta a te, nella cordata sarebbe quello anche di garantire l'operazione, quindi concedere prestiti? Ma guarda, l'architettura finanziaria è attualmente proprio il nodo allo studio del pool di banche. Ora sono quattro banche, Intesa San Paolo è un po' la banca che fa da regista, anche perché è in qualche modo direttamente coinvolta, essendo sia azionista di Parmalat, con una quota di minoranza derivante dal vecchio, insomma, dal vecchio crack della Parmalat di Caristo Tanzi, sia azionista di Granarolo con circa un 20%, quindi questo doppio ruolo di banca finanziatrice azionista la fa un po' diventare la banca di riferimento, anche perché è ormai diventata un po' la banca di sistema quando si tratta di fare queste operazioni industriali di grande respiro. E queste quattro banche devono studiare il modo di come finanziare una maxi operazione di questo tipo. Quindi un'ipotesi è il prestito, cioè prestare i soldi a Granarolo per fare sostanzialmente l'affondo, per andare dai signori di Lactalis e dirgli: mi vendete le vostre azioni, oppure tentare, come dire, un'offerta sul mercato. Chiaramente non solo è più costosa, ma è anche un po' un salto nel buio, perché non sai quale esito potrà avere, se avrai successo o meno. L'altra è di cercare di fare operazioni in cui Granarolo fa solo l'operatore industriale sostanzialmente e le banche invece fanno la loro parte finanziaria, si alleano, creano un agnuco con la quale andare sostanzialmente a fare l'affondo. I dettagli sono ancora tutti allo studio, non abbiamo novità, ma anche perché probabilmente le banche stesse non sanno ancora come strutturare l'offerta. Ci sono varie ipotesi, sono le due che oggi abbiamo descritto nel giornale, quindi sostanzialmente la cordata con conferimento di asset, oppure l'ipotesi del maxi prestito alla Granarolo per muoversi da sola. E tra l'altro con l'ipotesi anche di Lacteos, da non confondere con Lactalis, sì. Sono brasiliani e da quello che vi risulta avrebbero proposto di partecipare alla cordata italiana mettendo una partecipazione tra i 200 e i 300 milioni di euro, che comunque sarebbe assolutamente minoritario rispetto all'ammontare complessivo. E poi di Brasile, tra l'altro, parleremo dopo il GR. Grazie intanto a Simone Filippetti del Sole 24 Ore. Due risposte brevissime. Confermo a chi vuole far polemica: le frequenze radiofoniche in Italia sono un mercato liberalizzato. Chi vuole, chi ha i soldi, ce le compra e le paga a seconda dell'area. Per cui anche Radio 24 le ha comprate, le ha pagate e trasmette in quelle frequenze che dobbiamo ospitare gratis alcuni ascoltatori che vorrebbero. Altra cosa, invece, sono d'accordo con chi scrive: se parlate di abbattere le lobby, fate autocritica sui giornalisti. D'accordissimo, da sempre diciamo che gli ordini professionali, così come sono in questo momento, compreso quello dei giornalisti, non hanno senso. Hanno senso ordini che controllino la deontologia, basterebbe anche la legge in molti paesi, ma non ordini che rappresentano una chiusura e poi una lobby di fatto. Lo diciamo da 6, 7, 8 anni. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso, prima di arrivare al guadagno sulla benzina, restiamo sull'economia internazionale, perché come ricordavamo ieri si è aperto a Hainan, un'isola a sud della Cina, il terzo vertice delle economie più importanti, quelle che crescono di più: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, i BRICS, che da soli hanno contribuito per il 60% alla crescita mondiale. Spesso ci occupiamo di Cina ed India, pochissime volte di Brasile. Allora ne approfittiamo per parlare di un'economia che anch'essa sta crescendo con tassi tra il 6 e il 7% l'anno, il Brasile. Che porta anche un po' di allegria in questo programma molto molto avaro di buone notizie in questo periodo. Il Brasile, dicevo, un tasso di crescita dell'economia che è stato nel 2010 del 7,5%. La recessione non c'è praticamente stata, nel 2009 un meno 0,6%, ma si veniva da anni, il 2008, il 2007 e il 2006, di un'economia che è cresciuta tra il 5 e il 6%. Certo, resta un tasso di povertà alto, il 26%, una disoccupazione più bassa dell'Italia, come cifra ufficiale il 7%, e un PIL pro capite però che inizia a essere interessante, perché sono quasi 12.000 dollari. Pensate che l'India ne ha 3.200, la Cina 7.500, il Sudafrica 10.000 di dollari come PIL pro capite. Quindi un paese che si posiziona come ricchezza, come PIL prodotto individualmente, a un livello nettamente superiore a quello degli altri, delle altre economie emergenti di successo. Il segreto, cercheremo di capirlo adesso. Pensate che la valuta brasiliana, il real, ha fatto un più 35% dal 2005 ad oggi come apprezzamento, e tra l'altro vi è anche un salario minimo garantito. Ma la cosa più impressionante sul Brasile sono gli investimenti esteri: 45 miliardi di dollari ogni anno, pari praticamente a 3 manovre, anche 4 forse, finanziarie italiane. Ne scrive di Brasile l'ex vice direttore del Sole 24 Ore, attualmente direttore della Fondazione Pirelli, e mi riferisco a Antonio Calabrò. Il libro si chiama Il Brasile alla conquista dell'economia mondiale, Bandeirantes, questo è il primo titolo, e lo scrive assieme a Carlo Calabrò. La casa editrice è La Terza, è in collegamento con noi Antonio Calabrò. Buonasera. Buonasera a voi. Anzi, ciao, visto che sei stato per anni. Siamo stati con lei a lungo. A lungo. Allora, i segreti. Noi abbiamo raccontato anche l'elezione del presidente Dilma Rousseff. Tra l'altro, è questo in Cina, il vertice dei BRICS, è il primo viaggio della Rousseff in Cina. Ma insomma, Lula ha avuto una forza, quella di far cambiare un'economia che sembrava ingessata tra una classe alta e molto molto ricca e poi un'immensa classe povera, stritolando la classe media. La Youssef si sta muovendo in questa direzione, e comunque, se tu dovessi ricordare i due o tre elementi che hanno permesso al Brasile di diventare l'economia principale al mondo quanto a crescita dopo Cina e India, cosa indicheresti? Guarda, tutto comincia prima di lui. Sosa, con un presidente molto bravo che si chiama Fernando Henrique Cardoso, che eredita un paese con un'inflazione altissima, una situazione sociale drammatica e una instabilità generale sia sul piano interno che sul piano internazionale. Le prime politiche sociali sono firmate da Fernando Henrique, insomma la stagione delle riforme comincia con questa presidenza. Arriva Lula e ha l'intelligenza di continuare sulle politiche già impostate da Fernando Henrique Cardoso e poi di incrementare un binomio. C'è un segreto della crescita brasiliana, anzi per essere più esatti, c'è una ricetta. E la ricetta è questa: coniugare integrazione sociale con investimenti economici interni e internazionali. La lotta alla miseria, che è uno slogan molto bello, molto affascinante, diventa leva di crescita economica. La popolazione che esce dalla povertà e diventa classe media, metà della popolazione, consuma. Consuma oggetti minuti, come nell'Italia o come nell'Europa degli anni 50, gli elettrodomestici, si indebita perché pensa a un futuro migliore, diventa cittadina e contemporaneamente consumatrice. Ecco, lotta alla miseria, investimenti internazionali. Lula ha l'intelligenza di stimolare l'arrivo di capitali internazionali, non soltanto quelli americani, che erano sempre stati presenti in Brasile, ma moltissimo i capitali europei e anche quelli cinesi. Insomma, la regola: si cresce e si sanano gli squilibri sociali. Ci vuole molto tempo per riuscirci, però sono sulla buona strada. Cioè, politiche sociali unite a politiche di capitali, possiamo dire così? Assolutamente sì. Guarda, il Brasile è un paese protezionista e sta molto attento alla sua industria nazionale. Una delle polemiche recenti, per esempio, è quella del governo nei confronti di una grande società mineraria, Vale, perché Vale ha costruito la sua ricchezza esportando verso la Cina soprattutto prodotti che servono per le acciaierie. Vale guadagnava esportando, il governo diceva e dice, e finora ha vinto questa battaglia, le acciaierie facciamocele qui, le raffinerie di petrolio facciamocele qui. Attenzione dunque all'industrializzazione. Quanto ai motori dell'industrializzazione, Fiat va benissimo, Volkswagen fino agli anni 60, benissimo, Pirelli, benissimo, Siemens, benissimo. Da questo punto di vista è un paese che difende la sua industria nazionale e si apre facendo diventare, ecco un passaggio importante, industria nazionale anche l'industria che viene dall'estero. Fiat è percepita come molto brasiliana, Pirelli è percepita come molto brasiliana. Per quel che riguarda Dilma, sta continuando sulla falsariga di Lula e però anche lì adattandosi ai tempi. Io ricordo personalmente che in visita in Brasile per lavoro qualcuno mi disse: ma no, la Fiat non è italiana, è brasiliana, tant'era percepita come industria nazionale la Fiat. Però questo anche è un modo per affrontare il problema degli investimenti stranieri senza diventare colonia. E anche qui mi sembra che ci sia una terza via, cioè si può chiedere poi a chi investe di mantenere produzione, impianti e di avere un rapporto che non sia solo di mercato di sbocco e di vendita. Su questo possiamo dire che il Brasile, anche se vuoi per le dimensioni, conosce uno sviluppo un po' meno squilibrato della Cina in questo momento. Cioè la Cina, per carità, ha tassi di crescita intorno al 10%, la notizia era di oggi, ma sta avendo numerosi problemi sul fronte inflazione e sulla tenuta anche delle banche. Assolutamente sì. Intanto c'è una differenza fondamentale fra Cina e Brasile. Vabbè, una è la democrazia, l'altra no. Esatto, ma è una differenza chiave sui modelli di sviluppo. Sì. Perché per crescere in democrazia tu hai bisogno di coniugare prodotto interno lordo in aumento e consenso sociale e politico. Questa doppia cosa finora è riuscita. Mm-hmm. In più, il Brasile gode di quello che si chiama il bonus demografico, che varrà per i prossimi perlomeno 10 anni, forse 15, e cioè una popolazione giovane con pochi bambini e soprattutto pochi vecchi. Il bonus demografico ha anche una valenza di integrazione sociale, devi dare soddisfazione a persone che votano. Allora la democrazia non è una variante dello sviluppo, è una condizione fondamentale. Gli squilibri, per esempio tu citavi l'inflazione, sono perfettamente all'attenzione dei governi brasiliani, lo sono stati con Lula, lo erano già stati con Cardoso, che aveva chiuso il capitolo della iperinflazione, e lo sono adesso con Dilma. situazione drammatica che devastava soprattutto gli stipendi delle classi più povere, è attentissimo. E le ultime scelte politiche fatte, l'aumento dei tassi e l'attenzione a non fare surriscaldare troppo la moneta, il real, sono testimonianze di questo processo. Grazie Antonio Calabro, appunto il libro sul Brasile, casa editrice La Terza. La dichiarazione era troppo carina per non essere ripresa. Il direttore generale della Conad oggi, parlando a margine di un convegno, ha detto: al di là delle chiacchiere, le grandi compagnie petrolifere ci fanno un sacco di utili su questa benzina, visto che io come Conad, pur comprando carburante da terzi, riesco a coprire le spese e ci guadagno pure. La Conad infatti in alcuni punti vendita vende anche benzina, risparmi in media del 10 centesimi al litro. Sono 10 distributori Conad, li leggo tutti così diamo informazione anche su questo: Gallicano, provincia di Lucca, Trentaducenta, Caserta, Carbonia, Carbonia Inglese, Sporto Torres vicino a Sassari, Baggiovara vicino a Modena, Pagani vicino a Salerno, Faenza vicino a Forlì e Cesena, Arma di Taggia vicino a Imperia, Bibbiano vicino a Reggio Emilia, Savigliano vicino a Cuneo. Dottor Camillo De Bernardinis, amministratore delegato della Conad, che vuol dire 32.000 dipendenti, 9 miliardi di giro affari, 30.000 punti vendita, buonasera. Mi sente? Pronto? Non mi sente, allora... Pronto? Eccolo, eccolo, c'è? Buonasera. Buonasera, allora abbiamo pochi minuti, quindi andiamo rapidi. Devo dirle solo che i punti di vendita purtroppo sono solo 3.000, non 30.000. 3.000, mi scuso, ho sbagliato io, 3.000 punti vendita, errore mio, stavo leggendo velocemente e ho letto 30.000, ci mancherebbe. Gli auguriamo 30.000, ma dubito. Mi dica una cosa, ma insomma, quanto ci guadagnate voi da sta benzina e quanto e perché di una dichiarazione in cui subito le compagnie petrolifere si sono arrabbiate, hanno detto le perdite sono tra 600 e 700 milioni, risponde il presidente dell'Unione Petrolifera De Vita. Non capisco bene a quali utili si riferisca la Conad. Allora, io non ho ascoltato queste dichiarazioni perché sono sceso da poco da un aereo dalla Sicilia. Quella di De Vita, certo. Non ero presente alla conferenza stampa. Io però vorrei dire due cose. Io credo che il mercato oggi, il mercato della distribuzione dei carburanti è un mercato dove lavorando su un ammodernamento della rete e su una maggiore concorrenza attraverso l'ingresso di nuovi operatori come la grande distribuzione, può permettere di abbassare i prezzi al consumo e quindi può dare un vantaggio al consumatore che può arrivare fino a punti di 10 centesimi, perché noi oggi in media i nostri 10 impianti, come hai ricordato, hanno dei prezzi medi rispetto a quelli comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico dalle compagnie di 9 centesimi, con punte che arrivano sopra i 10, per esempio a Faenza, per i soci della no, ma mi faccia capire una cosa, voi la benzina da chi la comprate? Sì. Noi la prendiamo sul mercato italiano dai depositi italiani, quindi noi la acquistiamo, ma avendo degli impianti di nostra proprietà e con la nostra insegna, diciamo, noi riversiamo sul prezzo al consumatore il margine, tenendo un margine minimo che ci serve per coprire l'investimento e per far guadagnare il nostro socio imprenditore, perché noi non gestiamo gli impianti, sono dei nostri soci. Conad è un'organizzazione cooperativa di imprenditori indipendenti che sono i proprietari del supermercato o dell'ipermercato e che oltre a quello aprono un impianto di distribuzione di carburante che gestiscono direttamente. Perfetto, quindi riesce a vivere anche il distributore, questo è importante perché... Certo. Sì, ecco, quanto ci guadagnate voi? Il nostro socio è un piccolo imprenditore che non può permettersi di perdere sui carburanti. Mi scusi, voi la vendete a 10 centesimi in meno? In meno, comunque sì. C'è un guadagno anche per il distributore? Certamente, perché l'impianto va ammortizzato, perché ci sono degli... perché ovviamente l'imprenditore deve guadagnare.